Un messaggero del Signore salì da Galgala a Bochim e disse: «Io vi ho fatto uscire dall'Egitto e vi ho condotto nella terra che avevo promesso con giuramento ai vostri padri. Avevo detto che non avrei infranto il patto con voi in eterno, purché voi non faceste alcuna alleanza con gli abitanti di questa regione e purché distruggeste i loro altari. Voi invece non avete dato retta alle mie parole. Che è mai quello che avete fatto? Ora io dico: non caccerò più queste genti davanti a voi, ed esse saranno vostre nemiche. I loro dei saranno per voi causa di rovina». Quando il messaggero del Signore ebbe terminato di dire queste parole a tutti gli israeliti, il popolo alzò la sua voce in pianto. Per questo il luogo fu chiamato Bochim. Qui offrirono un sacrificio al Signore. Giosuè congedò il popolo e gli israeliti se ne andarono ognuno alla sua terra per prendere possesso della regione. Il popolo si mantenne fedele al Signore finché fu in vita Giosuè e finché lo furono gli anziani che a lui sopravvissero, i quali avevano veduto tutte le grandi opere che il Signore aveva compiuto per Israele. Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì in età di 110 anni e fu sepolto nella parte di territorio che gli era stata assegnata a Timnat Cheres, fra i monti di Efraim, a settentrione del monte Gahas. Allo stesso modo, tutta quella generazione si riunì ai suoi padri e dopo di quella sorse un'altra generazione che non conosceva né il Signore né tutte le opere che egli aveva compiuto per Israele. Gli israeliti facevano ciò che è male agli occhi del Signore e prestavano culto a Baal, abbandonando il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra di Egitto. Seguivano altri dei fra quelli dei popoli che li circondavano. Li adoravano e provocavano lo sdegno del Signore. Essi abbandonavano il Signore e prestavano culto a Baal e ad Astarte. Divampava così contro gli israeliti lo sdegno del Signore, il quale li abbandonava nelle mani di predoni che li rapivano e li vendevano ai loro nemici all'intorno senza che gli israeliti potessero loro resistere. Qualunque impresa essi tentassero, la mano del Signore si stendeva nemica contro di loro, conforme a quanto egli aveva detto e aveva loro giurato. Così Israele cadeva in gravi oppressioni. Ma allora il Signore suscitava dei giudici perché liberassero gli israeliti da coloro che li depredavano. Ma gli israeliti non davano ascolto neanche ai loro giudici, ma si prostituivano con altri dei, adorandoli. Con grande facilità abbandonavano la via che avevano seguito i loro padri nell'obbedienza ai comandi del Signore. Essi non agivano allo stesso modo. Quando il Signore suscitava dei giudici per gli israeliti, egli proteggeva ciascun giudice, il quale portava gli israeliti alla vittoria contro i loro nemici per tutto il tempo che viveva, perché il Signore si muoveva a compassione dei gemiti degli israeliti sotto l'oppressione di chi li perseguitava. Ma alla morte del giudice, essi tornavano a comportarsi anche peggio dei loro padri, seguendo altri dei che veneravano e adoravano. Non recedevano dalle loro opere, dalla loro condotta perversa. Divampava perciò di nuovo contro Israele l'ira del Signore, il quale diceva: «Poiché questo popolo ha trasgredito il patto che ho stretto con i loro padri e non dà ascolto alla mia voce, io non continuerò a cacciare davanti a lui nemmeno uno dei popoli che Giosuè ha lasciato alla sua morte. Farò questo allo scopo di mettere gli israeliti alla prova per mezzo di questi popoli, per vedere se essi osservano le vie del Signore come hanno fatto i loro padri, oppure no. Per questo il Signore aveva lasciato quelle popolazioni senza cacciarle subito e non le aveva consegnate nelle mani di Giosuè.